3 dicembre. Quell'uomo non ha più presa, specialmente sulle masse. Siamo andati ad ascoltare quel suo sconnesso e grossolano interminabile discorso in un piccolo bar di Trastevere. I popolani apparivano disinteressati e diffidenti. Molti non hanno aspettato che finisse. I più erano delusi. Anche le sue volgarità personali hanno fatto presa effimera sulla grassa volgarità popolare. Mussolini non ha capito questa volta lo stato d'animo della folla. Non ha capito, né poteva capirlo nella sua grossolana vacuità, che un popolo immerso nella più sfibrante sofferenza quotidiana, angustiato da ristrettezze opprimenti, terrificato dallo spettro di un avvenire disastroso, ha bisogno di parole penetranti e comprensive. Richiede che ci si commuova, che ci si intenerisca per il suo male, che si cerchi di idealizzare, di sublimare la sua passione, e non che si esasperi la sua asprezza, che si acuisca il suo risentimento, non che si ecciti il suo odio. Il popolo è fanciullo. Mussolini lo ha dimenticato. È un fanciullo che soffre, vuol soprattutto essere consolato. Ma gli egoisti e i vanitosi non sanno consolare. Riescono tutt'al più a fingere istrionicamente la commozione, come egli ha fatto con le sue lunghe pause artificiose prima di parlare dello strazio delle città bombardate. Ma l'artificio in questi casi si smaschera facilmente, non raggiunge l'effetto che si era prefisso. Del resto, in realtà, a Mussolini non importa affatto la sofferenza del suo popolo. Per quanto lo disprezzassi profondamente, la sua insensibilità mi ha ancora stupito. È pericoloso eccitare l'odio delle masse in questo momento. Potrebbe rivolgersi contro il vero responsabile.